prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera, oggi la prima parte della nostra rubrica ospita una storia che in qualche modo fonde assieme sport e solidarietà, due cose che spesso viaggiano proprio insieme. Quella di oggi è infatti la prima volta di Anna May, un'atleta dal cuore grandissimo, biker, ciclista su strada, pluripremiata a livello mondiale e che a Montichiari il 31 ottobre, quindi tra pochissimi giorni, tenterà di battere il record dei 1000 km su pista. Allora, diciamo che questa è la tua più recente e incredibile prima volta. Ci spieghi, Anna, da cosa nasce questa sfida? Ma questa sfida nasce dal desiderio di voler aiutare questi bambini farfalla e anche di voler provare a superare ciò che umanamente potrebbe sembrare un limite. Perciò sono due le motivazioni che hanno dato vita a questa sfida. Mi puoi raccontare chi sono i bambini farfalla e come tu li hai incontrati, come hai incontrato questa associazione? I bambini farfalla sono un migliaio in Italia, stiamo parlando di una malattia genetica rara, e soffrono di una patologia chiamata epidermiolisi bollosa, che rende la loro pelle fragile come le ali di una farfalla. Non necessariamente perché prendono dei colpi. Queste bolle si formano ovunque nel loro corpo, anche sugli occhi, anche all'interno del cavo orale e anche sugli organi interni. Questo, come puoi immaginare, dà loro una vita di grande sofferenza. Ecco, sono dei bambini che soffrono veramente molto, perché queste bolle sono simili a delle piaghe e a delle ustioni. Di conseguenza sono soggetti ogni 2 o 3 giorni a delle medicazioni molto dolorose, esattamente come una persona ustionata. Sì, con la differenza che una persona ustionata guarisce, i bambini farfalla no. E tu come hai fatto a incontrare questa associazione che li rappresenta? Ma io li ho incontrati casualmente, la bicicletta è sempre in mezzo comunque, perché nel 2010 era il momento di passaggio tra la mia attività sulle ruote grasse, cioè mountain bike, con l'attività da strada, e trovai per caso su internet questa 24 ore solo per squadre, che in quel caso era una gara che anche lei aveva come obiettivo la raccolta fondi per i bambini farfalla. Io mi presentai come solitaria, scrissi all'organizzatore e gli dissi: io vengo però da sola, faccio squadra da sola. Lui mi disse: ma come, ma sei matta? Io ho detto: no, guardi, in realtà questo è quello che già io faccio nelle 24 ore in mountain bike, perciò non faccio altro che trasferirlo su strada. In quel contesto conobbi i bambini farfalla, conobbi le loro mamme, conobbi anche il professor De Luca, che è uno dei maggiori luminari e che lavora al CNR di Modena proprio. Detto questo, non sono più riuscita a staccarmene, perché mi sono resa conto che loro avevano proprio bisogno di qualcuno che parlasse di loro, perché c'era troppo silenzio intorno a loro, più che la raccolta fondi. Li vedevo proprio silenziosi, avevano bisogno di una voce e io, per quello che posso fare, faccio. E cosa hai iniziato a fare? Ho iniziato a mettere delle farfalle sulla maglia, ho iniziato a pensare che potevo essere come quei sandwich man che a New York camminano facendo pubblicità. Io potevo, essendo una ciclista che correva, chi meglio di me è un cartellone pubblicitario? Noi siamo dei cartelloni che camminano. E allora immaginai la mia maglia senza alcuno sponsor, ma con delle farfalle. E alla domanda che cosa indicano quelle farfalle, la risposta era presto detta. Ci ho messo un po' di anni, questo record io lo farò con una maglia con sopra solo delle farfalle. E stai... con mia grande gioia. e state riuscendo comunque ad abbattere questo silenzio di cui parlavi prima, e anche, insomma, sta venendo fuori le persone cominciano a sapere che cos'è, no? Innanzitutto questa malattia rara. Questo per me è una gioia immensa, per me è veramente una gioia immensa. Soltanto il fatto che le persone inizino a sentir parlare di questa malattia mi rende molto felice, anche perché vuol dire che se per strada una persona vede un bambino completamente fasciato, invece che girare il volto e allontanarsi, forse la reazione inizia a essere differente, perché purtroppo è anche molto discriminante come malattia. Poi soprattutto che la ricerca possa avere dei fondi da destinare, no? Perché questo è il vero problema quando si parla di malattie rare. Ma allora, sicuramente il professor Di Luca la ricerca la sta portando avanti, come dicevo precedentemente, al CNR di Modena. È innegabile dire che i fondi non bastano mai, i fondi non bastano mai. Ciononostante, la possibilità di una guarigione esiste, cioè, perché De Luca proprio me la... Io sono ignorante in materia, però quando sono andata al CNR di Modena ricordo benissimo quando mi ha fatto vedere i vetrini di Mattia, un bambino con le cellule malate, e i vetrini sempre di Mattia con le cellule sane. Li ha fatti vedere a me e a Mattia stesso. Immaginati il volto che ha fatto, mi ha guardato e mi fa: Anna, ma queste sono le mie sane? E io gli ho detto: sì Mattia, sono le tue sane. E lui mi fa: ma perché sono lì e non sono dentro di me? Questo è un messaggio forte. Questo vuol dire che comunque il professor De Luca e tutti i suoi collaboratori stanno lavorando, e tanto, e la speranza c'è. Qual è la giornata tipo ora che sei proprio in vista di questa gara? Sorrido. E la mia giornata, allora, partiamo dal presupposto che io di ciclismo non vivo, perciò fondamentalmente sono una persona normale che, facendo una vita normale, ha anche un lavoro. Io insegno a scuola. Quando non sono a scuola sono in bici, perché per preparare un record di questo genere, io penso, infatti sì, mi chiedono quando è che hai iniziato a prepararti? E la mia risposta è probabilmente dal primo giorno che sono salita in sella. Quando è successo? Quanti anni avevi? Ma questo è successo casualmente. Io sono laureata in scienze motorie, perciò la mia vita è lo sport. E il ciclismo è stato l'ultimo di una serie. Ed è arrivato tardi, stranamente è arrivato tardi. È arrivato nel 2006. Da subito comunque sono venuti dei risultati, soprattutto nelle gare di lunga durata. E com'è questo record dei 1000 chilometri su pista? Cioè qual è l'obiettivo da raggiungere? L'obiettivo da raggiungere è fondamentalmente proprio il chilometraggio, perché nessuna donna mai è riuscita a raggiungere questo chilometraggio all'interno di una pista. Me medesima, perché ho provato a farlo l'ultima volta che ho provato il record e sono arrivata a 902. Ero praticamente arrivata, però quando il nostro fisico dice basta... non ci si può fare niente. Ecco, ed è stato basta. Però noi sportivi, perlomeno io, ho un brutto vizio. Mentre ero lì che non stavo bene e tutti erano preoccupati perché pensavano che io volessi ripartire, io mi ricordo che dissi: no, non preoccupatevi, io non riparto, tanto lo riproverò. Cioè, sapevo già che comunque avrei riprovato. E infatti, eccoci qua. Senti, allora, innanzitutto io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. E, grazie a te. In bocca al lupo, non so come si dica in questi casi, comunque si sappi dice che siamo in bocca al lupo. Te. Io ringrazio te e ringrazio tutti gli ascoltatori e soprattutto li esorto a seguire l'evento non soltanto come un evento sportivo, ma come la possibilità che ognuno di noi ha di poter aiutare questi bambini, perché hanno veramente tanto bisogno di noi, hanno bisogno di noi e hanno bisogno di una voce. Io e la mia associazione sportiva, che è la SD Sport Nel Cuore Cycling, abbiamo bisogno di tante persone per portare insieme la causa dei bambini farfalla. Ci dai un link nel quale poi... Io vi do il link al mio sito www.annamei.it, sul quale si trova sia il link dell'evento che il link anche della ONLUS di riferimento, alla che è la Debra ONLUS sul Tirolo, alla quale si possono fare le donazioni. Adesso ci dobbiamo fermare per qualche istante. Questa era la storia di Anna May e dei bambini farfalla, e invece nella seconda parte del programma andremo a scoprire un'iniziativa fatta da altri volontari, da un'associazione volontaria, Avis, donatori di sangue, una storia particolare, una singola storia che in qualche modo racchiude la storia di questa associazione e di tutti coloro che negli anni stanno continuando a donare il sangue. A tra poco dunque. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. La prima volta. È qui che si dona il sangue? Sì, dai. Era la prima volta, vero? Sì. Me ne ero accorto, sai? Un po', avevo paura. Per così poco? Mai avere paura di aiutare gli altri. Lei viene spesso qui? Sì. Io l'ho fatto per Mario, mio amico. Anch'io l'ho fatto per Mario. Perché lo conosce? No. Ricordatevi di Mario prima di partire per le vacanze. Ricordate questa pubblicità Progresso? Andava in onda a metà degli anni 90 ed esortava con un semplice video a donare il sangue e a farlo per un ipotetico Mario. Allora è da qui che partiamo in questa seconda parte del nostro programma, una puntata dunque un po' particolare perché abbiamo scelto due storie di solidarietà e in questo caso parliamo di quella che è stata definita la tribù dei donatori e ovviamente parliamo di donatori di sangue. Una tribù, secondo alcuni studi pubblicati l'anno scorso, composta soprattutto da uomini, lavoratori dipendenti tra i 26 e i 55 anni. Non mancano però ovviamente anche i giovanissimi, gli studenti, le donne precarie, i disoccupati, i cittadini di origine straniera e anche persone, 4 su 100, disposte a fare più di 30 km per donare. Una spinta a darsi che forse è stata potenziata dalla crisi economica ma che sicuramente è stata sostenuta da associazioni come Croce Rossa e Avis in testa. Nella classifica delle regioni con più donatori, al primo posto c'è la Lombardia, seguita da Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana a pari merito con la Sicilia. A livello geografico, tra città e provincia, vince quasi sempre la provincia e spesso si dona di più nei piccoli paesi rispetto al loro capoluogo. L'Italia non fa alcuna discriminazione sessuale nei confronti dei donatori, cosa che abbiamo scoperto invece avviene in altri paesi e questo nonostante i dati scientifici dimostrino che la diffusione dell'HIV è più alta tra gli eterosessuali. Insomma, come avete capito, di questo argomento ci sarebbe moltissimo da raccontare, noi invece abbiamo scelto di farcelo raccontare da Claudia Firenze, 37 anni, che proprio grazie allo spot che avete sentito all'inizio della trasmissione ha dato via al suo percorso di donatrice e oggi è venuta a trovarci per esortare chi può e chi vuole a non avere paura e a donare. Ed è questa la sua prima volta. La mia prima volta con l'Avis, con la donazione del sangue, è avvenuta attraverso una pubblicità in televisione, quindi sono figlia della comunicazione sociale ante litteram. Facevo i compiti, avevo la televisione sottofondo e sentii lo spot organizzato dal Ministero della Salute allora, il famoso L'ho fatto per Mario, in cui si raccontava appunto di una prima volta, di una prima donazione, e in cui un ragazzo aveva paura appunto di questa donazione e chiedeva a questa persona più grande di essere rassicurato e alla fine gli dice: io l'ho fatto per Mario, e l'adulto gli risponde: anch'io l'ho fatto per Mario, perché lo conosci? No. Ecco, quello per me fu una specie di illuminazione e quindi decisi che sarei diventata donatrice di sangue. Quanti anni all'epoca avevi? Avevo 16 anni, quindi cominciai a dire a mia mamma: voglio donare il sangue. Mia mamma: sì, vabbè, devi aspettare un po' perché insomma a 16 anni non puoi donare. E i 18 anni fatidici per diventare donatrice li ho compiuti a Ferragosto, io sono nata d'estate e quindi tornata dalle ferie a settembre feci gli esami di idoneità. E mi ricordo perfettamente ancora quando mi telefonarono all'ospedale per dirmi che ero idonea alla donazione, fu una telefonata bellissima. Mi ricordo che mi emozionai tantissimo ed ero contenta di avere la possibilità di donare il sangue. Nel frattempo era iniziata la scuola, quindi avevo cominciato la quinta superiore e andai a donare il sangue, poi entrai la prima volta, poi entrai alla seconda ora. Mi ricordo che c'era la professoressa di inglese che era un po' cattivella quando mi disse: ah, ma sono i primi giorni di scuola e tu già entri alla seconda ora. E io dissi: professoressa, sono andata a donare il sangue. E mi disse: brava Firenze, brava, allora sì, questa è stata un'assenza giusta. E quindi servì anche per farmi avere un bel sorriso dalla burbera professoressa d'inglese. Tu sapevi quando hai iniziato, cioè a che cosa serviva questo tuo gesto? Sì, devo dire che sono stata un po' spinta dall'onda emotiva, nel senso che comunque il pensiero di far qualcosa per qualcuno che non conoscevo mi piaceva, cioè mi piaceva l'idea che veramente potevo cambiare la vita di una persona. Si dice no, io non so per chi dono, perché comunque la donazione è anonima, nel senso non so a chi va il mio dono e chi riceve non sa che gliel'ho donato io, però so perché, cioè, quindi lo scopo è assolutamente semplice, no? Dare sangue a chi ne ha bisogno. Il sangue non si produce in laboratorio, si può solo donare, e quindi ci vuole un po' di buona volontà da parte dei donatori. Adesso la vostra comunità ha deciso di aprirsi anche a una sorta di narrazione di queste esperienze, per cui avete lanciato questa iniziativa che tra l'altro si chiama come la trasmissione nella quale sei stata ospitata la prima volta, e in questo caso sono prime volte apparentemente minime, piccole, no? Però sono prime volte che forse, come nel tuo caso, hanno cambiato la vita di persone che donavano e anche di persone che ricevevano. Abbiamo cercato di coinvolgere un po' chiunque, sia i donatori che non i donatori, a raccontarci le loro prime volte, quindi insomma ci sono stati anche testimonial che si sono messi a disposizione, storie anche di donatori che magari hanno raccontato le loro donazioni, ma anche, come dire, un concetto più ampio, perché ci sembrava, come dire, interessante poter dare anche voce a momenti importanti per ognuno, perché noi riteniamo appunto la donazione un qualcosa di importante, però sappiamo che nella giornata di ognuno di noi ce ne sono moltissimi altri momenti importanti, e poi che si sommano nella vita, insomma, sono tantissime le cose da ricordare, e quindi semplicemente abbiamo raccontato un po' la nostra maniera, forse con un linguaggio che è un pochino più fresco e meno istituzionale, perché Avis è un'associazione bellissima, un'associazione che ha 3.400 sedi in Italia, che ha quasi 90 anni di storia, che raccoglie più di 1.300.000 volontari, però secondo noi, ecco, può anche riuscire a parlare con un linguaggio fresco e un po' alla portata dei tempi. E dove si vede tutto questo lavoro di raccolta di storie che avete fatto e che state ancora facendo? Abbiamo proprio un portale dedicato, www.laprimavolta.avis.it. Ti hai avuto modo di leggere alcune storie, però so che non ne potete parlare, perché appunto essendo tutti in gara non si può sostenere uno piuttosto che un altro. Sì, anche se spesso sono commoventi, ma anche divertenti, ironiche, cioè veramente c'è vari registri, che poi alla fine è un po' lo specchio della vita di ognuno di noi, no? Magari abbiamo il momento drammatico, ma anche quello ironico in cui ci prendiamo un po' in giro, e insomma ci sembrava carino anche riuscire a dar voce a tutti questi aspetti, ecco, perché poi alla fine per un donatore, che è di fatto una persona normale che ha la fortuna, il privilegio di essere sano, ma poi ha uno stile di vita corretto, però è una persona normale, cioè io dico sempre che non è né un supereroe né uno sfigato, è una persona normale che vive una vita come tutti. Per il donatore, insomma, la donazione di sangue è un aspetto importante della vita, però non è l'unico, ecco. La prima volta termina qui. Se avete storie da raccontare, scrivetecela all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Abbiamo anche una bella pagina sul sito di Radio 24, dove potrete riascoltare le nostre storie pregresse. Poi potete anche diventare parte della nostra comunità su Facebook. L'indirizzo è radio24-laprimavolta. Insomma, adesso avete tutto l'occorrente per non perderci di vista. Io vi saluto e vi auguro un buon inizio di settimana. Domenica prossima, sempre alle 23 e qualche minuto. just for one day.